cercato la mia origine, ma non sai da dove parte un fiume. L'equilibrio tra le nuvole, il profumo della vita intorno a me, nei colori una vertigine, che mi vesto addosso come un fiore. Pomeriggi tra le favole, dove il tempo mi saprà spottare. Voglio cantare adesso, se avessi un giorno solo, vorrei trascorrerlo con te. Portami e guida piano, guarda che bella immagine. Se avessi solo un giorno per camminare insieme a te, ti aspetti il mio ritorno, facciamo tardi a ridere. Ripartito da un'origine, a imparar che va nuotato un fiume, l'equilibrio tra due braccia che mi cercavano più avanti a un fulmine. D'improvviso la fuligine, quando senti che ogni sbaglio è fumo e ti fermi in un'indagine, e il colpevole, la vittima sei te. Voglio cantare adesso, se avessi solo un'ora e ti potessi stringere, ora non puoi inciampare, mi sceglieresti ancora. Se avessi un'ora sola, ti porterei in un posto dove si ferma il vento, mi sceglieresti ancora. Arrivato ad un'origine, qui riparto perché scende un fiume. Sono muscoli e pensieri se mi ritrovo un po' più avanti al culmine. Sono solo quattro pagine di quel libro, un po' di tutti insieme a me. Il cartone resta fragile, ma il regalo dentro è di diamante. Voglio cantare ancora, se avessi un anno intero, potrei cambiare il mondo. Ho le parole pronte, formano come un fiume. Se avessi un anno intero, fare girare il mondo, piccolo nelle mani, oggi pensavo questo. Se avessi un anno intero, potrei cambiare il mondo. Ho le parole pronte, formano come un fiume. Se avessi un anno intero, fare girare il mondo, piccolo nelle mani, oggi pensavo questo.